Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Eccoci qui dal Groove Master Studio, buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo e vado subito a salutare Francesco Tromba per la sua presenza, ci sei? Ciao a tutti. E siamo felici questa sera finalmente di averlo in carne e ossa qui nel Groove Master Studio, un musicista che abbiamo tanto atteso, lo devo dire, anzi nelle ultime settimane abbiamo presentato la nuova pubblicazione, album che in verità si ritroverà e potrà essere acquistato su iTunes a partire dal 14 di ottobre. Vado a introdurvi uno dei miei migliori amici, infatti per me oggi, mio caro Dario, è difficile fare la puntata con te, Madame Messier, Dario De Idda. Grazie. Bentornato, ce l'abbiamo fatta. Sì. Ce l'hai fatta a staccarti un attimo dai tuoi impegni e anche da casa, no? Sì. Non è facile per te. Che c'hai alla voce, scusa? Sono senza poca voce, infatti voglio parlare il meno possibile. Tu vieni in radio, vuoi parlare una volta che ti troviamo in radio, vuoi parlare il meno possibile. Dario, sono felice di vederti, anche perché attendevo con ansia il tuo rientro dagli Stati Uniti, visto che hai trascorso una ventina di giorni lì a New York per realizzare il sogno di molti musicisti, cioè quello di suonare, per te non è neanche la prima volta, in uno dei club più prestigiosi del mondo, che è il Village Vanguard, e lo hai fatto tra l'altro con una formazione di tutto rispetto come bassista titolare del trio e del quintetto di Kurt Rosenwinkel, che è uno dei migliori chitarristi ormai da anni, poi con tutti gli altri musicisti. Chi c'era? Gregory Hutchinson, Mark Turner, sì, Marcus Gilmore alla batteria, anche alla batteria nella seconda settimana con il quintetto. E poi Nitai Herskovitz, che è un pianista israeliano che suona con Avishai Cohen. Bravissimo, bravissimo anche lui. Senti, dimmi un po' l'atmosfera vissuta, che si vive al Village Vanguard, che di solito nei club newyorkesi c'è un grande casino, quasi neanche si ascolta la musica, invece al Village Vanguard c'è ancora quella disciplina che viene imposta proprio dal club anche agli appassionati di musica. Assolutamente. C'era intanto una fila enorme fuori per entrare. Credo sia anche un posto abbastanza turistico, quindi a molti turisti arrivano, insomma, sai, nel jazz club, che lì ad ascoltare in religioso silenzio la musica, quindi insomma dai, è una bella è stata una bella esperienza. Senti, sono venuti i musicisti italiani a trovarti? Beh, questo infatti è stato ogni sera dovevo fare la lista dei crediti, come si dice, degli accrediti. Sì. Perché sì, c'erano Joseph Lepre, insomma tanti, Marco Panascia e Luca Santaniello, insomma, e anche altri magari che non conosciutissimi qua in Italia, però che stanno lì, giovani. Ti hanno scattato fotografie, e poi adesso spieghiamo anche perché ti faccio questa domanda. Sì. Vabbè, io cerco di non farle scattare le foto, però sì, forse. Perché non ti piace essere fotografato? Sì, sono un pochino. Infatti, io quando ho chiamato tempo fa il mio amico Paolo Soriani, che è nostro ospite, uno dei più importanti fotografi italiani di musica, ho chiesto a Paolo Soriani: hai delle fotografie di archivio di Dario De Idda per poter fare un po' di promozione, visto che c'è la pubblicazione del nuovo album in atto? Beh, sì, come per molte situazioni ho delle foto, ma sono sempre poi, a meno che non riusciamo a fare dei posati, quelli che in termine tecnico si chiama posati, abbiamo sempre queste foto fatte dal vivo, quindi sì, io in genere preferisco infatti lavorare durante i sound check. Ecco, adesso quindi, parliamo anche di questo, esatto. Perché io per questo da anni dico ai miei musicisti di presentarsi vestiti in condizioni piacevoli ai soundcheck, invece d'estate soprattutto i musicisti con le brachette. Va bene, Paolo Soriani e Dario De Idda sono nostri ospiti oggi al soundcheck di Radio 24. Io direi, caro Dario, di iniziare subito con uno dei brani clou di questa nuova pubblicazione, che hai intitolato come My Favorite Strings, cioè le mie corde preferite, quindi sì. Si capisce subito che è un disco che è dedicato al tuo strumento o ai tuoi strumenti. Sì, perché in effetti anche il pianoforte ha delle corde. Ha delle corde. Forse anche il rullante della batteria. Ah, certo, c'è la cordiera sotto. Qui diciamo è sì, un po' dedicato a tutti gli strumenti che hanno una corda che vibra. Ecco, e anche noi vogliamo vibrare adesso presentando questa versione di Dario De Ida di un classico dello swing, brano scritto da Benny Goodman e Charlie Christian, portato poi al successo internazionale dalla versione vocale di Ella Fitzgerald, alla quale ti sei ispirato. Certo. Però suonando il tutto con i tuoi strumenti, bassi elettrici, contrabbasso, e poi c'è un groove soltanto di hand clapping e di rullante per swingare con Airmail Special e Dario De Ida al soundcheck di Radio 24. Airmail Special, il sound di Dario De Ida. Dal 14 ottobre troverete questo album My Favorite Strings su iTunes. Si stanno già lamentando i tuoi fans internazionali perché per ora si troverà soltanto sullo store italiano di iTunes, quindi dovranno fare la conversione sui loro computer. Gli abbiamo fatto questa beffa, ma questo proprio perché siamo ancora in attesa di capire che cosa succederà a livello internazionale con questa pubblicazione. Dario De Ida è nostro ospite, così come il nostro ospite Paolo Soriani, che ha portato le macchine fotografiche, perché oggi approfittiamo della presenza di Dario, sennò quando lo becchiamo. Senti, Dario, allora dimmi un attimo, finalmente abbiamo realizzato quello che era un po' un progetto che portavi, che avevi nel cassetto da ragazzo, perché tu hai sempre realizzato i tuoi provini suonando tutte le parti con il basso elettrico e poi le pubblicavi sul vecchio MySpace. Questa volta invece siamo riusciti a mettere tutto in bella copia. Sì, in effetti questa cosa risale da molto prima, perché scusate, ogni tanto schierisco la voce, ma sono senza voce e sono costretto a parlare. Vabbè. Ecco. Devo tornare indietro un po' nel tempo, perché quando ero un ragazzo, tipo avevo 12, 13, 14 anni, così, già in effetti all'epoca non c'erano computer, non c'erano, e tantomeno anche le basi Ebersold, insomma, sai, per esercitarsi, per studiare. No? Per cui io a casa improvvisavo, a volte registravo una linea di basso, poi avevo due registratori, insomma una cosa impossibile, cioè, se la racconto è incredibile. Cioè avevo due registratori, uno mandava quello che avevo registrato e l'altro registrava l'altra linea. Quindi ti facevi il playback da solo. Cioè, il playback però, capito, con i rumori chiaramente che si sommavano dei clacson delle auto sotto, o di mio padre che urlava con mia madre. Quindi, ecco, insomma, una delle cose che apprezzo di più del tuo stile, che tu, pur avendo una conoscenza infinita di musica, una grande tecnica sullo strumento, comunque quando suoni, anche quando improvvisi, soprattutto si sente questa cosa, tu canti, cioè tutti i tuoi assoli hanno un senso e sono tutti, come diciamo noi, cantabili. E questo proprio perché sei anche un appassionato proprio di voce umana, ti piacciono i cantanti e noi abbiamo una passione in comune che è la voce, per me, che è quella di, certo, Donny Hathaway, la voce della soul music. Donny Hathaway, un inventore di musica, campione di vocalità, e allora ascoltiamo insieme The Ghetto, è un brano, questo è il groove, certo, in persona, certo. Questa è la versione proprio dell'album. Soundcheck, il suono della musica. DJ Telesco. Pudding on the Ritz, una composizione di Irving Berlin riproposta dal contrabbasso, in questo caso di Dario De Ida. A dire la verità, il contrabbasso suonato da Dario De Ida in questo brano è il mio, un vecchio K-Bass del 1937, strumento realizzato a Chicago proprio per i musicisti di jazz squattrinati che non si potevano permettere uno strumento di liuteria. In che condizioni è, Dario, lo strumento? Stupendo, anzi ne cercherò immediatamente uno. Ma questi li trovi negli Stati Uniti, qua non si trovano tanto. Tempo fa ne ho trovato forse uno. Ah sì? C'era qualche annuncio. Allora, sono contento di averti nel nostro studio e contento anche Paolo Soriani, che finalmente riuscirà a scattare qualche foto a questo signore che non si vede molto spesso in giro, nel senso che tu stai rintanato molto a casa tua, tu vivi a Capua, giusto? Sei salernitano, vivi a Capua. Sì, esatto, sono trasferito lì. Praticamente ti si vede al Conservatorio di Salerno, dove ti sei diplomato e dove insegni basso elettrico, e poi a casa, se no bisogna convocarti per i concerti, se no sì, non ti si vede mai. È ancora per poco, io spero. In che senso? Cioè, perché io amo stare a casa, purtroppo, quindi mi piace. Vabbè, fortunatamente c'è la tecnologia che ti potrà aiutare. Presto certo. Potrai fare i concerti seduto in poltrona con le pantofole. Magari. Contento? Sì, no, io odio i viaggi, vabbè, come tu. Condividiamo questo lavoro. Lo so benissimo. Viaggiare oggi sembra, tutti quanti ci invidiano questa cosa, no? Mm. Voi siete sempre viaggiati, vi divertite. Invece andiamo a parlare un po' un attimo. Che devo fare? Devo ripetere ancora una volta la storia di Caombesi, lo dico sempre, no? Caombesi è stato il primo a dirlo, no? Che ci pagano Per i viaggi e non per i concerti, e quella è la cosa piacevole. Ti piace ancora suonare? Moltissimo. Quali sono le tue grandi passioni oltre alla musica? Il mangiare sicuramente. Sì, sono magro, però insomma mi piace anche cucinare, mangiare bene, nonostante sia stato punito perché sono celiaco. Questo è un guaio. Allergico al glutine. Quindi sei allergico al glutine, ma al 100%? Sì. Quindi proprio devi evitare. E quindi prima di partire, quando vai in tournée, per esempio, adesso che sei stato a New York, che fai? Avvisi Kurt Rosenwinkel? No, ma chi avvisa, figuriamoci, proprio lui. Perché? No, è perché è più scombinato di me. Però ho fatto un doppio fondo nella valigia, avevo tipo 7-8 buste di pane. Ah, sei partito proprio come un meridionale. Però in ogni caso devo dire che New York è all'avanguardia su questa cosa, quindi ho trovato tutto. La prossima volta non porto nulla. Invece non ancora sono organizzati da questo punto di vista tutti i ristoranti italiani, soprattutto i club. Anche perché io ho anche scritto un blues... no steak for players, ovvero nessuna bistecca per i musicisti, perché ci sono ancora dei club che fanno il menù per il musicista, che può ordinare solo l'insalatina e il primo piatto. Se vuoi una bistecca te la devi pagare, e questa mi sembra una cosa abbastanza offensiva per tutti i musicisti, grandi e piccoli. Se mi inviti nel tuo club a suonare, devi essere ospitale al 100%. Paolo Soriani, fotografo accreditato, nostro ospite. Oramai i fotografi, come dicevi prima, preferiscono scattare fotografie ai sound check, per quale motivo? Ma intanto perché si riescono a cogliere dei momenti che sono veramente dei momenti interessanti. Ciò che interessa, al di là del musicista che imbraccia il proprio strumento, è capire la sua personalità e vedere anche dei momenti, voglio dire intimi, però sicuramente dei momenti che non siano sempre gli stessi, ma che rispecchino anche quel momento. Il fatto di scattare in una serata sicuramente è diverso che scattare in un altro luogo, in un'altra serata. Quindi durante il concerto, alla fine, i musicisti ripetono ovviamente pose e comunque situazioni analoghe. Il soundcheck è un momento vivo, è un momento unico. Quindi tu dici che hai notato che durante i concerti i musicisti hanno una gestualità che viene poi fuori un po' dalla routine, no, del lavoro. Diciamo soprattutto che sono legati al fatto che stanno suonando, sono talmente concentrati che non pensano a nient'altro che alla musica, che è bellissimo, sono momenti molto belli. Però anche lì il fotografo deve anche essere discreto, deve essere anche capace di non interferire nella situazione, cioè il concerto è la musica, il fotografo deve rappresentarla, allora o è capace, e quindi la professionalità è anche questo, essere invisibile, essere capace di non essere un ostacolo tra la musica e il pubblico, cosa che purtroppo, mi permetto di dire, spesso succede, e quindi anche questo, il soundcheck ti permette di stare a contatto con il musicista, parlarci, creare un rapporto diretto, questo è fondamentale. Quindi il fotografo, soprattutto quello che scatta fotografie durante i concerti e comunque segue la musica live, deve cercare non tanto la bellezza del musicista, ma la verità del musicista. Assolutamente. Allora, io direi, Dario, se ti fa piacere, abbiamo ascoltato prima Putting on the Ritz, ma qualche anno fa, per un disco intitolato New Joy, insieme abbiamo realizzato, è quasi come se avessimo anticipato la produzione di My Favorite Strings, abbiamo realizzato una versione originale di Putting on the Ritz, nel senso che tutta la parte, l'impianto armonico è quello di Putting on the Ritz, ma abbiamo scritto un tema insieme e fatto una versione un po' più funk che farei ascoltare. Il brano si intitola Give Me Your Hands, Dario De Ida al basso. Soundcheck. Il suono della musica. Il suono di Marcus Miller per questa versione di Teen Town, composizione di Jaco Pastorius, bassista che ha rivoluzionato l'utilizzo di questo strumento e bassista che ancora oggi è un must da seguire, tant'è vero che poco tempo fa in Spagna, non ricordo bene il nome della località, c'è stato un summit, una riunione di musicisti e di bassisti per ricordare la figura leggendaria di Jaco Pastorius, che è scomparso 30 anni fa e oggi avrebbe compiuto esattamente il primo di dicembre, andrebbe a fare quanti anni? 66 anni. E Jaco Pastorius è stato un modello anche per il nostro Dario De Ida. Quindi con Pastorius che cosa è successo con il basso elettrico? Che prima il basso elettrico è uno strumento che è nato per dare la possibilità ai contrabbassisti di potersi muovere con uno strumento più agile, poi è uno strumento che per le sonorità è entrato di diritto nel mondo del rock and roll, del rock, della soul music, del gospel. I musicisti di jazz hanno sempre preferito il contrabbasso, però Jaco Pastorius che cosa ha fatto, Dario? Guarda, è molto difficile parlare di quello che ha fatto Pastorius, perché ha fatto una cosa incredibile, che infatti proprio in un'intervista lì, quando sono stato in questa località Girona, che è una città non lontano da Barcellona, dove ho fatto questo omaggio a Pastorius, insomma, provavo a elencare, ma non ci sono quasi riuscito, perché per dire, Jimi Hendrix sì, ha inventato la chitarra rock, ma lui ha inventato il basso elettrico, diciamo rock, perché tutto è stato forse il primo bassista a usare il distorsore. Ha inventato un suono diverso, ha inventato il basso elettrico nel jazz, ha inventato il basso elettrico anche nel pop, perché oggi tutti quanti, quindi diciamo è veramente una impossibile, cioè è stato un ispiratore per, abbracciando tra l'altro tutti i generi musicali, anche per dire, è stato il primo a eseguire un brano classico, ha eseguito Bach. Per cui non è solamente un discorso di virtuosismo, un discorso proprio di mente geniale. Sì, un genio che ha rivoluzionato l'utilizzo del basso elettrico, portandolo a fare delle cose che prima non si sentivano, sì, assolutamente. Cioè il basso elettrico, così come il contrabbasso, forse ecco, nell'ambiente del jazz per i contrabbassisti già c'era quella mentalità, ecco, il fatto che Pastorius ha portato sul basso elettrico la mentalità proprio di un musicista completo, perché lui suonava, sì, anche le parti armoniche, esatto, era un eccellente solista, faceva i temi quando suonava con i Weather Report e ha scritto, e questa è un'altra cosa che noi dobbiamo dire, è stato un eccellente compositore, esatto, e arrangiatore, incredibile. Quindi per cui dico, è impossibile parlare di Pastorius, io preferisco stare zitto. Beh, è bello, perché comunque oggi tu sei considerato nel mondo uno, non posso dire un numero, però senz'altro sei fra i primi 5 bassisti elettrici accreditati, e non sei più considerato solo l'erede di Pastorius, ma fortunatamente sei diventato Dario De Ida, e questo, sì, è un grande merito. Per fortuna. Vabbè, io sono stato forse fortunato, perché da ignorante, o forse più che da ignorante, insomma da incosciente, cioè quando avevo 15-16 anni, pensavo che potevo, cioè ok, Pastorius lo amavo, ma come amavo Coltrane, ma io pensavo, ok, ma se Coltrane fa quella roba lì sul sassofono posso farla anche io, cioè pensavo, ecco. Poi è chiaro che non era, però sempre con grande rispetto, con amore, e infatti però, è quello che si sente quando suoni, cercavo sempre di trovare tutto sommato poi un modo mio di fare, infatti non ho mai trascritto assoli di altri, in verità. Ecco, hai trovato un tuo stile e anche un tuo suono, ogni tanto suoni strumenti che non si vedono facilmente in giro, semiacustici, che ti servono proprio per creare sonorità adatte a un certo tipo di repertorio, ma in questo brano, in questa versione di Liberty City, proprio ecco qui il tuo omaggio a Jaco Pastorius, c'è proprio un arrangiamento originale che hai realizzato anni fa per l'album Three from the Ghetto con Stéphane Houchard alla batteria, bravissimo, e un giovanissimo, incredibile Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Ascoltiamo questa versione di Liberty City, facciamo una pausa perché arriva l'informazione Radio 24, poi di nuovo collegati dal Groovemaster Studio, perché con noi ci sono anche Sebi Burgio e Dario Panza, con i quali prestissimo partirai anche per fare una serie di concerti e ci farete ascoltare qualcosa dal vivo. Che dite? Va bene, ok, eccolo qui, Liberty City, Dario De Ida al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Seconda parte del soundcheck di Radio 24, questa sera nostri ospiti The Master of Photography, il maestro Paolo Soriano e Dario De Ida. Finalmente siamo riusciti ad avere il maestro del basso elettrico qui da noi, ormai accreditato in tutto il mondo, è tornato da New York e adesso riusciremo a legarlo, mio caro Francesco Tromba, per fargli fare anche un po' di promozione per questo album intitolato My Favorite Strings. L'album è in prevendita su iTunes, ma ho notato che ci sono anche già tantissime visualizzazioni di questa clip che abbiamo realizzato proprio insieme dal vivo, così quasi per gioco buttati. C'era Simone Calcagni, il nostro regista, che ha filmato il tutto e adesso è online per anticipare proprio la pubblicazione del disco, e sono tantissime le visualizzazioni. Mi sorprende molto, mi sorprende sempre, Dario, il fatto che tu, pur avendo registrato a tuo nome soltanto due album, abbia un seguito incredibile a livello internazionale. Come mai? Che hai fatto? Non lo so, sinceramente non lo so questo. Beh, diciamo, chi mi conosce forse sa che sono una persona abbastanza semplice. Sì, e non sei neanche tanto attivo sui social network. Ogni tanto sei un po' polemico su alcune cose, però non sei attivo, non sei uno che si espone, si promuove e espone filmatini, eccetera. No, infatti non lo faccio tanto. Beh, bravo, semplicemente questo, no? Basta poco alla fine, no? Immagino. Grazie. Anche per, soprattutto per i tuoi allievi, perché tu fai anche, insegni anche al conservatorio, che sia un'emozione dal punto di vista loro, cioè avere un tale maestro. Come si rapportano con te, cioè anche tu come ti rapporti con loro, con l'insegnamento? Guarda, anche io, anche lì cerco di mantenere un rapporto abbastanza amichevole, nel senso che non mi piace avere troppa distanza, nonostante, vabbè, loro mi danno anche il lei, per dire, a volte così. Anche perché comincio a essere anche grandicello, no, di età, e quindi mi vedono il signore qua e basta. Guarda, sì, alcuni hanno sempre un po' il timore reverenziale, quelli un pochino più appassionati di jazz, perché però ce ne sono tanti invece che vengono lì più che altro a studiare il basso, a prendersi anche un famoso pezzo di carta, cioè la laurea, insomma. Per cui in verità io non credo di avere una grande distanza con loro, cioè sono molto, abbiamo una, come si dice, una pagina Facebook dove comunichiamo, quindi sai, se spostiamo lezioni, cose così, io pubblico ogni tanto lì qualcosa, però è una pagina chiusa, quindi. Quali sono i momenti fondamentali del percorso di studi con te? No, i momenti fondamentali, io all'inizio parlo, infatti dico sempre che il corso è di jazz, perché il conservatore è intitolato così, no? Il corso di jazz, ma io insegno molta tecnica, perché è uno strumento anche giovane, per cui cerco sempre di parlare delle cose fondamentali che appartengono a tutta la musica. Ecco, in questa cosa, ecco, la lezione di Pastorius credo mi sia servita, ecco. Per cui il suono per me è uno, il tempo è sempre uno, non è che esiste nel jazz uno è farfallone sul tempo, invece no. Per cui io, ecco, impongo la professionalità in ogni caso. Quindi il jazz poi viene al limite nel biennio, cioè gli ultimi due anni, e a chi è realmente interessato, quindi l'improvvisazione. Così. Per il resto gli insegno, cerco di trasmettergli il mestiere, tra virgolette, insomma. Cioè. Tu vieni da una famiglia di meravigliosi musicisti, tua madre pianista, tuo padre eccellente pianista di jazz, ma si suonava tutta la musica buona a casa tua. Io sono stato da tua madre l'anno scorso, mi sono fatto una bella chiacchierata con lei anche per il programma televisivo che facevo per Rai 5, e i tuoi fratelli mi hanno detto Dario è diventato bravissimo perché è quello che ha studiato di più in famiglia, e ancora studia, è quello che mi ha detto Sandro. Quindi quanto tempo riesci a dedicare allo strumento ancora oggi? Fra i concerti, la famiglia, i viaggi? Diciamo che sposandomi ho dovuto ridurre tanto, però poco prima di sposarmi veramente mi ha fatto... Adesso che stai responsabilizzando tua moglie e tuo figlio? Nel senso, poco prima di avere, più che sposarmi, proprio prima di che nascesse mio figlio, ecco. Anche perché poi, ecco, ieri sera per esempio ho speso un paio di ore, un'oretta con lui a giocare, quindi non mi piace tanto fare quello. Però insomma sì, dai, per me non esiste non esisteva la giornata, cioè non esisteva un tempo limite, capito? Non è che dici ok, adesso studio 4 ore, no, non me ne accorgevo, a volte partivo il pomeriggio e arrivavo la sera, ma non solamente sul basso, non studiando tecnica, suonando, poi in mezzo magari fai tecnica, era uno studio molto libero. Molto, tutto sommato lo penso sia uno studio creativo in qualche modo. Ecco, poi non tutti gli amici sanno che tu hai studiato anche altri strumenti, forse più per divertimento, sì, però insomma il pianoforte per te è uno strumento certo, importantissimo. Hai studiato anche un po' la tromba, l'armonica cromatica, suoni discretamente la batteria, io forse un po' meglio di te, però va bene, dai. Senti, allora io direi di ascoltare la title track dell'album My Favorite Strings, che è un brano che in origine era in 3/4, poi insieme abbiamo proposto questa versione senz'altro più etnica in 5/4 e devo dire che il brano è venuto veramente sì, bene, a me piace tantissimo. Dario Deida al soundcheck con My Favorite Strings, e poi direi di prepararvi ragazzi perché facciamo due note dal vivo, ok? Sì. Can you hear me? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Soundcheck, il suono della musica. Sì, Dario Deida e Paolo Soriani sono nostri ospiti qui al Soundcheck Radio 24. Io direi, caro Dario, a questo punto che forse potreste anche posizionarvi agli strumenti. Io vi do il tempo. Che sei contento, eh? Certo. Perché il microfono ti dà fastidio, ma è vero? Che odio. Infatti. Grazie. Molto bene. Allora, dai, posizionatevi, sì. Sebi, Dario Panza e Dario Deida. Che brano volete fare adesso? Facciamo il blues. Un blues. Una tua composizione. Brown, sì. Ah, dedicato a Ray Brown, beh certo, e quindi che fai, contrabbasso? Contrabbasso, ok, allora ti puoi andare a posizionare. Paolo, allora come va con questa fotografia? È cambiato tutto, si lavorava in pellicola, adesso c'è il mondo del digitale, c'è una concorrenza spietata perché tutti fanno fotografie con i telefonini, come la mettiamo? Io penso che la tecnologia abbia democratizzato un po' tutti i linguaggi anche creativi dell'arte. Tante persone incidono dei dischi a casa con un Mac e anche i fotografi ormai con una stampante o un buon computer possono farsi addirittura un libro, e quindi questo è nella natura del progresso tecnologico. Il problema è sempre il contenuto, non è mai la quantità o quello che si riesce a fare, e anche in fondo la qualità tecnica ormai è alla portata di tutti, quindi ciò che fa la differenza è il contenuto. Quanto lavori come fotografo di musica e quanto lavori come fotografo freelance, così come sei tu? Ma diciamo che io mi divido tra fotografare la musica, che comunque mi occupa molto tempo, perché poi c'è uno studio, c'è una preparazione, anche quando faccio dei lavori legati alla promozione di un disco o alla realizzazione appunto della copertina, eccetera. È un lavoro che comincia prima e che poi si muove per diversi giorni anche dopo lo shooting, quindi non è solamente il giorno dello scatto, e questo per me significa aggiornarsi, vedere, guardare. È un peccato, per esempio, parlando delle copertine, che una volta c'era una diffusione, l'unica diffusione attraverso il vinile, e quindi le copertine. Ci torneremo, ci torneremo al perché vinile. Perché adesso fai la fotografia per la copertina e la trovi in formato francobollo per iTunes, non è così carino. Sì, no, ma io penso che ormai si ritornerà spero a fare degli oggetti d'arte, e quindi la musica deve essere veicolata, a mio modesto parere, o completamente in digitale, quindi non c'è supporto, non c'è nulla, oppure si crea qualche cosa che sia veramente un'opera d'arte, che sia l'incontro multimediale ma concreto tra fotografia, musica, grafica, disegno e... Allora, io direi di andare alla musica. Siete pronti? Sebi, ci sei? Sei pronto? Sì, pronto. Allora, ci siamo. Io direi di proporre questo blues. Dario Deida al contrabbasso, Sebi Burgio al pianoforte, Dario Panza alla batteria. Il brano si intitola Mr. Brown's Brownies, brano dedicato, un blues minore dedicato al grande maestro Ray Brown. Eccoli qui dal vivo al soundcheck di Radio 24. Thank you. l'abbiamo fatta, che meraviglia, bravi ragazzi, bravi, bravi. Grazie anche a Riccardo Bomarzi che cura con grande attenzione il suono del live del nostro soundcheck. Grazie a Dario De Ida, Sebi Burgio e Dario Panza. Dario, ecco, adesso torni al microfono e quindi torni nuovamente triste. L'amara realtà. Devi, quando devi lasciare lo strumento, è vero, sì. L'amara realtà. Allora, guarda, faccio una cosa, ti faccio riprendere e vorrei proporre agli amici di Radio 24 un altro brano incredibile realizzato per questo album, My Favorite Strings. Lo ripeto, lo troverete sullo store digitale di iTunes a partire dal 14 ottobre. Il brano è una composizione di Sting, non così famosa, perché è un brano che Sting ha scritto per la colonna sonora di un film. Il brano si intitola Until. E qui che cosa hai combinato? Qual è l'impianto creato per questa versione di Until? Ma in realtà mi sono rifatto molto alla versione originale. Non ho aggiunto nessuna nota di improvvisazione. Oddio, c'è qualche leggera, qualche svolazzo verso il finale, ma non c'è. Ecco, questo è un brano dove tu hai utilizzato il fretless. Il suono ricorda vagamente Pastorius, ma c'è un impianto, posso dirlo fra virgolette, sì, insomma, quasi sinfonico per questo brano. Sì. Beh, ti ripeto, insomma, sempre sono bassi sovraincisi e quindi magari ognuno fa una piccolissima cosa. Per esempio, ce n'è uno che fa solamente un armonico di una nota acuta perché mi serviva per completare l'accordo, quindi tutto il pezzo fa quest'unica nota. Va bene, speriamo di riuscire ad ascoltare almeno un minuto, perché poi facciamo una piccola pausa. Dario De Ida, Until, composizione di Sting, al soundcheck. Soundcheck, il suono della musica. Tantissimi fans di Dario De Ida in ascolto, anche tanti amici che stanno facendo domande per i segreti di una buona fotografia, soprattutto parlando di musica, perché presente con Dario De Ida nel nostro studio c'è anche Paolo Soriani, fotografo accreditato. Quando io vado in giro per festival, Paolo Soriani lo trovo già sul palco, praticamente è un musicista aggiunto, anche perché credo che il segreto per un bravo fotografo è anche quello di avere molti amici fra i musicisti e quindi di avere libero accesso sui palcoscenici e anche nei camerini, o no? Sì, diciamo che l'amicizia serve soprattutto per creare appunto quel rapporto diverso, personale, e quindi avere uno scatto che non è la rappresentazione della faccia del musicista, ma è qualcosa che il musicista in quel momento dà a te. E quindi è una forma di regalo che poi tu condividi con tutti. Io ti volevo fare una domanda, Paolo. Immagino che, no, come nelle interviste ci siano, no, degli artisti che sono più facili da intervistare rispetto ad altri. Quali sono gli artisti invece che sono più semplici da fotografare, nel senso che magari non devi perderci troppo tempo per uno scatto? Ma sai, questo non lo sai mai prima, lo scopri quando ti ritrovi davanti a loro e cerchi di capire nel più breve tempo possibile qual è il massimo che tu riesci a ottenere nel minimo tempo, perché ovviamente il musicista, a meno che non viene nel tuo studio e decide di fare uno shooting per un progetto specifico, ti concede un tempo che per lui è sempre troppo, giustamente, perché pensa al concerto, pensa al soundcheck, pensa a tutto tranne che alla foto. Quindi questo è, quindi diciamo che i musicisti in generale, no, non mi piace creare delle classifiche. Sì, delle classifiche, quello che è più bravo sta meglio. Chiaramente c'è chi è più abituato, diciamo che ci sono musicisti che in qualche modo sanno che quella è una parte importante e quindi in quei due minuti ci sono. Ecco, io so per certo che Dario De Ida è sofferente di fronte all'obiettivo di una macchina fotografica, ma e invece lo oggi vedo già sorridente perché ha lasciato il contrabbasso e ha preso il suo basso elettrico. Che strumento è questo che usi? Ma questo è il mio vecchio Squire degli anni, quindi non è, apparentemente sembra un basso non importante, invece in realtà è un suono bellissimo ed è un vintage perché è dell'82. ho altri miei colleghi che possono confermare il valore di questo strumento. Però io poi ho anche un Fender Jazz vero del 66. Ecco, e lo tieni sotto chiave quello? Sì, no, in questo momento sto facendo un esperimento dove io ho montato un manico fretless con cui poi ho appunto realizzato Until, sì, il tema di Until. E quindi, però oggi mi andava di suonare questo. Ecco, molti pensano che con il fretless è più, cioè si usa di più il fretless per fare jazz, invece in questo caso, in questo momento, ci darai l'esempio di come si può suonare uno standard del jazz contemporaneo, perché questa è una composizione di John Coltrane intitolata Moment Notice, che è presente anche in My Favorite Strings, però con un arrangiamento senz'altro diverso, perché lì suoni da solo, soltanto sul Fender Jazz, tutte le parti. Quindi le linee di basso, gli accordi, tema e assolo. Qui invece sei aiutato da due formidabili musicisti della nuova generazione che saranno presto con te in tournée, quindi Moment Notice, Dario De Ida trio con Dario Panza alla batteria e Sebi Burgio al pianoforte, live al soundcheck di Radio 24. Che meraviglia! Dario De Ida trio dal vivo al Soundcheck Radio 24, un vecchio brano scritto da John Coltrane, Moment Notice, qui però in una versione veramente bella. Sai che, Dario, guarda, ti faccio avere le registrazioni perché secondo me avete suonato benissimo, è proprio bello, è stato bellissimo ascoltarvi, e poi fare la radio con la musica dal vivo cambia proprio tutte le prospettive, una meraviglia. Bellissimo. Allora, Dario, io dunque il trio è una formazione che è ideale per te, stai in trio con Kurt Rosenwinkel, ma avevi un trio col quale però ti sei esibito pochissimo, ma con il quale hai realizzato un album bellissimo ormai quanti? 14 anni fa? Eh beh sì. E fra i brani presenti in quell'album intitolato Three from the Ghetto c'era proprio questa composizione, un reggae, brano che hai scritto e che ha dato poi il titolo alla produzione. Qui Dario De Ida è in compagnia di Stéphane Houchard, eccellente batterista francese, e un giovanissimo Julian Oliver Mazzariello al pianoforte. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, si sta per concludere questa puntata del nostro Soundcheck. Io mi sono divertito tantissimo ad ascoltare musica e anche a parlare di fotografia con il mio amico Paolo Soriani. Paolo, tanto noi ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, perché adesso inizia una bellissima stagione di concerti in giro per l'Italia, e sì, sono sicuro che ti ritroverò. Sicuramente lo seguo, e comunque è importante lavorare sempre in armonia con i musicisti, questo credo sia fondamentale. Ecco, senti, non scappare però adesso dopo la puntata, perché magari riusciamo finalmente a immortalare Dario De Ida con un posato, certo, che è la cosa pronto, che più odia, sì, no? Perché sì, finché sì, sta sul palco con i suoi strumenti, uno gli fa le fotografie, va bene, ma adesso lo voglio vedere gli proprio il posato. Tempo adesso un paio d'ore con la truccatrice e lo stylist, vedrai che si rilassa. E... Guarda, con questa barba che aspetto ha? Con questa barba che aspetto a Paolo, come lo vedi? Beh, io lo trovo molto molto interessante. Diciamo che potrebbe andare tranquillamente su una copertina di una rivista. Di un disco, va bene. Sì, allora, anche di una rivista. Di una rivista. Allora ti metteremo su Vanity Fair, Dario, col tuo strumento. Grazie Dario, grazie per avermi dato l'opportunità anche a distanza di 14 anni di produrre il tuo secondo album da solista. Perché soltanto due album a tuo nome quando invece dovresti registrare tutti gli anni qualcosa? E anche perché sono cose che ti vengono richieste dai tuoi fans e dai tuoi studenti. Ma guarda, secondo me quando hai qualcosa da dire fai un disco. Io insomma non ho sentito più di tanto l'esigenza, in verità ho anche vagato molto tra quello che scrivevo, eccetera. Ho qualche altra idea ancora, ma vediamo. Beh, tu sei anche un meraviglioso compositore, quindi adesso con questo primo volume, ecco, qui è stata la mia trovata tromba, no? Gli ho fatto la fregatura, sì, ho detto produciamo il disco, incastrato. Poi ho detto siccome la formula è carina, facciamo volume 1, così poi siamo costretti, certo, a fare anche il volume 2. Ti è piaciuta questa fregatura che ti ho fatto? Ti è piaciuta, va bene. Io ho già l'idea, perché in questa prima occasione, anche per fare le cose velocemente, Dario Mario suona con i suoi bassi e il contrabbasso tutto l'impianto, diciamo, armonico, melodico, gli assoli. Poi mi diceva: mettiamo dei loop. Ho detto: ma perché dobbiamo mettere dei loop che sono meccanici? Ti faccio io delle basi ritmiche. Lui a un certo punto anche un po' storto il naso, perché naturalmente suonando con Gregory Hutchinson, questa sera Dario Panza, la batteria, è stato bravissimo ed è un grandissimo musicista. Insomma, credo che qualsiasi batterista e percussionista si sarebbe divertito a fare quello che invece ho fatto io per te. Però sì, mi sembra che le cose siano andate nel verso giusto, perché l'idea era quella di far venire fuori i tuoi strumenti e non di sovrastarli. È stata una sorpresa, tutto sommato, anche per Madonna mia. Questa, ti prego, fammi una fotografia, Paolo, anzi filmate questa cosa. Fammi dei complimenti, dai. Te l'ho detto, sei stata una sorpresa. Più di così, però non si lascia andare, no? No. Sono ben tre parole. No, sei stato una sorpresa, un miracolo. Comunque, dai, no, hai fatto un lavoro, secondo me, ottimo. Anche perché un po' anche insieme, però insomma sei stato parco, diciamo, nell'aggiungere le cose. Anzi, a volte io dicevo: no, mettiamo quest'altra cosa, tu dicevi: no, aspetta, così va no bene. No, l'album è proprio naturale. Certamente non potevi suonare contemporaneamente tutti gli strumenti, no, quindi sì, è un album di produzione, ma è l'idea fantastica, perché secondo me dopo le prime due tre tracce, anzi dopo la prima traccia, ti dimentichi che è un album di un bassista, perché di solito, e lo dicono soprattutto i radiofonici, il suono del basso, il contrabbasso in radio non funziona, e invece ha funzionato, certo. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta. E poi gli album dei contrabbassisti di solito annoiano, invece questo è divertente, te lo dico. Sì, io che l'ho prodotto. Scusami, il volume 1. Allora Dario, facciamo una cosa, ti va, che vogliamo, facciamo una cosa insieme, sì, per chiudere, dai. Che vuoi fare? Io farei, visto che nel disco abbiamo anche fatto altre volte un'altra versione molto più antica del disco mio, quando era il 2000 per un album fatto anni fa, sì. We Couldn't Be Happier, credo. Sì, ah sì, beh, sì. Che vuoi fare? Freedom Jazz Dance. D&D. Allora facciamo Freedom. Sebi, ci sei? Dario, siete pronti? Siamo, siamo. Vabbè, grazie a Sebi Burgio e Dario Panza, sono meravigliosi, grazie, no? Ragazzi, che dici? Grazie. Che dire? Di una parola, fai un complimento. Una sorpresa. Bravi, bravi, sono giovani, sono giovani. No, grazie a Dario De Idda. Grazie, Dario De Idda, Sebi Burgio, Dario Panza dal vivo. E io non faccio tanto, canto il tema con voi. Dai, forza, vai. Sì. Ecco l'applauso finale, facciamoci l'applauso finale. Grazie a tutti, Dario De Idda, grazie a Paolo Soriani, Francesco Tromba, Sebi Burgio, Dario Panza, grazie a Riccardo Bomarzi che ha curato come ingegnere del suono il suono di questa puntata e del soundcheck, grazie anche a Simone Calcagni presente con le sue telecamere, perché le session live di Dario De Idda in trio sono state filmate. Grazie a tutti voi, ci risentiamo domani a partire dalle 19:15 qui dal Groove Master Studio per il soundcheck.